Siamo in diretta, come potrete udire dalla piazza. Ciao ancora. Ciao, ciao. Allora, eccoci, raccontaci a che punto siamo arrivati. Il corteo comunque ha mosso i suoi passi già da un po', poi è stato ripetutamente bloccato. In questo momento sentiamo però che ci sono degli interventi, quindi si sta svolgendo una sorta di conferenza, assemblea, no? Sì, infatti, come abbiamo detto un po' nella mattinata, è stata diciamo una lunga mattinata, una trattativa continua e molto determinata della piazza di cercare di avvicinarsi sempre di più insomma al luogo in cui si discutevano gli stati generali. E in questo momento siamo diciamo davanti al Palazzo delle Poste a Piazzale Asia all'Eur e siamo riusciti insomma a far spostare i blindati che impedivano ai manifestanti di fare qualsiasi passo in avanti. E in maniera molto determinata, come dicevo nella corrispondenza precedente, con un po' di tensione insomma siamo riusciti a spostarci e in questo momento tutta la parte che ha partecipato sia alla manifestazione di sabato che sotto la sigla Roma Bene Comune adesso sta facendo una serie di interventi dal camion. L'informazione insomma nuova che abbiamo ottenuto adesso è che siamo riusciti a strappare l'incontro con Alemanno che è insomma differente da quello che è stato fatto lunedì, che era inerente ai tavoli, alle trattative con i movimenti per il diritto all'abitare, e questo invece è con appunto il pacchetto Roma Bene Comune, quindi si stanno organizzando questa delegazione di 10 persone che sarà costituita anche dal Comitato per l'uso pubblico delle caserme, i movimenti per l'acqua, i lavoratori e le lavoratrici del canile, ma anche le maestre d'asilo degli asili pubblici, gli operatori sociali, si sta cercando di renderla insomma rappresentativa possibile delle lotte e delle mobilitazioni che si sono succedute insomma già da luglio scorso. Senti, ma è un incontro che avverrà nelle prossime ore oppure si sta fissando sì, una data più in là? Alle 14:30. E quindi va da sé il fatto che il corteo rimarrà lì per dar man forte insomma. Sì, no. Stiamo ragionando su questo, naturalmente è stata una mattinata molto faticosa che si è decisa passo dopo passo, quindi naturalmente c'è molta stanchezza, però anche molto insomma determinazione sul farlo in questo momento, l'incontro, e non essere spostati quando un po' l'attenzione calerà su questi stati generali. Quindi l'incontro ci sarà alle 14:30 di oggi, quindi stiamo capendo se rimanere qua in presidio almeno per tutta la durata dell'incontro per poi raccontarlo insomma sia alle persone che sono qui, poi capiremo insomma anche a livello pubblico come proseguire il percorso, che sappiamo tutti non si ferma soltanto con le mobilitazioni intorno agli stati generali. Non ci interessa l'evento soltanto, la vetrina di Alemanno Berlusconi, ma da più interventi si è ribadito che l'importante è continuare e cercare naturalmente di alzare sempre di più sia i termini del conflitto ma anche di una partecipazione sociale che dovrebbe essere sempre più ampia. Eh già, senti, vabbè, insomma, dei contenuti che a grandi linee animano questo percorso ce ne hai già parlato a sufficienza questa mattina, tra l'altro poc'anzi abbiamo appena avuto una corrispondenza da Primavalle in cui si è svolto questa mattina un presidio antisfratto, giusto per collegarci ai temi che chiaramente dominano l'agenda politica del movimento e che d'altra parte sono soffocati insomma da un interventismo della giunta Alemanno che è molto vigoroso per l'assegnazione di posti pubblici importanti e poltrone, ma di tutt'altro avviso invece per la risoluzione dei nodi di carattere sociale. Ecco, ti volevo chiedere invece se ci sono proprio delle richieste precise, proprio focalizzate, che avete intenzione e che già magari avete elaborato da portare a questo incontro. Sì, solo per citarne qualcuna, appunto salirà uno dei rappresentanti del comitato per l'uso pubblico delle caserme, perché è una battaglia insomma che vede la partecipazione di molti comitati intorno alle varie, alle 15 caserme vuote che stanno subendo insomma questa valorizzazione da parte dell'amministrazione pubblica, che non è altro che invece una svendita di un patrimonio che dovrebbe essere invece messo, come dicevi tu, alla risoluzione di problemi a partire dall'assistenza alloggiativa, ma anche problemi come la mancanza dei servizi nei nostri territori. Cioè, una delle richieste che verrà fatta sarà proprio appunto l'uso pubblico almeno di una parte della rendita che verrà ottenuta con la vendita delle caserme, che quindi non siano soltanto centri commerciali o garage, ma anche servizi come asili nido piuttosto che assistenza alloggiativa. Tra l'altro sembra che i centri commerciali aumenteranno nei prossimi mesi, ce ne sono in progetto una ventina, che è una cosa davvero, davvero agghiacciante, insomma. Appunto, che non fanno altro che poi andare a influenzare anche la socialità dei territori, ci vogliono sempre più lontani non solo dal centro delle città, ma proprio anche dai servizi primari delle persone, quindi costruiscono i centri commerciali e tendono poi a rinchiudere anche la socialità all'interno di spazi invece appunto commerciali. E salirà anche appunto la delegazione anche dei canili per continuare a ribadire che si stanno appunto rischiando molti posti di lavoro, sia per quanto riguarda gli operatori sociali che gli asili nido e i canili comunali, quindi verranno fatte delle richieste precise anche sulla salvaguardia di questi posti di lavoro. E poi infine, come insomma spesso diciamo a questa radio, saliranno anche i movimenti per il diritto all'abitare per cercare di ribadire, avere delle conferme sia sull'aumento dell'edilizia residenziale pubblica, cose insomma sventolate più volte dall'amministrazione, ma comunque ancora, nonostante le mobilitazioni, non abbiamo un pezzo di carta preciso e neanche le prove, oltre alle richieste scritte, di un aumento della costruzione di alloggi popolari e del recupero e dell'autorecupero di questa insomma di spazi abbandonati da anni. Va benissimo, allora credo sia tutto. Chiaramente, insomma, chi ci ascolta, abbiamo tra l'altro ricevuto telefonate in tal senso, diciamo che a questo punto sosterrete lì almeno in attesa di questo incontro, quindi questo possiamo dirlo, e quindi chi vuole può raggiungervi. E dici anzi magari bene le coordinate. Allora, siamo a Piazzale Asia davanti all'edificio delle poste all'Eur. Perfetto, allora ciao. Ok, ciao, grazie. Grazie, ciao.